Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, qui in studio Stefano ed Eleonora. Questa volta di che cosa parliamo? Parliamo di un tema che si potrebbe trattare in poco tempo, vero Ste? Sì, molto poco. Pochissimo, la Palestina. La situazione, il conflitto israelo-palestinese. Allora, da dove cominciare? Io cercherò di essere un pochino più moderato di Eleonora, perché Eleonora è appena tornata da un lungo viaggio di cui ci racconterà dopo. E io farò i commenti acidi in sottofondo. E credo che potrei cominciare da fare una panoramica su come è nato il popolo palestinese. Però bisogna parlare di un altro popolo, ossia dello Stato di Israele, del popolo israeliano, che nasce ufficialmente nel 1948, il 14 maggio, con una risoluzione delle Nazioni Unite, a seguito di una serie di rivendicazioni che il popolo di Israele, cioè degli israeliani che sono sempre stati in Palestina, hanno rivendicato anche con delle lotte armate, fondamentalmente tra 45 e 47. E fondamentalmente, nonostante l'opposizione dei paesi arabi, il 14 maggio del 1948 nasce lo Stato di Israele. Però ha subito degli scontri, infatti dal 15 maggio, il giorno dopo, scoppia subito una guerra in cui risultano vincitori alla fine di essa gli israeliani. E qui comincia anche la storia dei palestinesi, bene o male, perché infatti 600.000 palestinesi vengono proprio deportati dalle loro abitazioni e vengono portati in paesi vicini, in campi profughi. Sì, infatti la nascita dello Stato di Israele viene definita dal popolo palestinese la Nakba, il disastro. Che drastici. Comunque sia, ci sono altre tre guerre che si sviluppano nel 56, nel 67 e nel 73. Alla fine di questi conflitti ci sono delle trattative fondamentalmente tra lo Stato di Israele e gli altri stati che sono stati arabi che hanno continuato a fare guerra fino al 1973, tra cui anche la famosa trattativa di Sadat, presidente dell'Egitto, che riconosce lo Stato di Israele, e in circostanze misteriose Sadat poi verrà ucciso proprio per questa cosa. Sì, molto misteriose, insomma, non si capisce. In questo tempo i palestinesi nascono fondamentalmente come popolo, in quanto i palestinesi sono tutte le persone che hanno abitato in Palestina prima del 1947 e sono riconosciuti in un totale di 4 milioni, di cui un terzo sta in campi profughi da 60 anni. E nel 67 Israele occupa questi campi profughi e li ingloba nel proprio stato. Altri invece sono sparsi per vari altri stati come Europa e Stati Uniti. E nel 60 nasce la prima rappresentanza politica dei palestinesi con l'OLP, tra cui uno dei massimi partiti esponenti è Al-Fatah, che è stato fondato da Yasser Arafat. Comunque sia, loro rivendicano tramite l'OLP, il popolo palestinese, una propria identità. E però gli israeliani hanno sempre fondamentalmente avuto un asto nei confronti di questa rivendicazione, e anche in realtà gli altri stati arabi non è che abbiano avuto sempre una politica molto chiara al riguardo. Sì, molto spesso gli stati arabi limitrofi hanno appoggiato il popolo palestinese più per ragioni propagandistiche. Sì, anche per propaganda, perché alla fine i popoli arabi tendenzialmente appoggiano i palestinesi, ma i governi difficilmente hanno interesse appunto a dare uno stato a questo popolo. Infatti c'erano anche sia dei governi che guardavano semplicemente con sospetto l'LP perché poteva essere proprio una miccia per l'esplosione di una serie di conflitti all'interno del Medio Oriente, sia della gente che proprio ha attaccato ed è sempre stata ostile nei confronti dell'OLP. Una su tutti è sicuramente il settembre del 1970, in cui avviene il cosiddetto settembre nero da parte dei palestinesi, nei confronti dei palestinesi, in cui fondamentalmente c'è una guerra tra Israele e la Giordania, in cui vince la Giordania, e in questo conflitto migliaia di palestinesi muoiono perché sono in mezzo al conflitto, come al solito. Perché sono stati storicamente più o meno sempre le vittime, si sono sempre trovati in mezzo a interessi più grandi di loro. Poi c'è un altro importantissimo e tragico evento della storia della Palestina, è nell'82 l'eccidio di Sabra Shatila, in cui furono uccise 3.000 persone all'interno di questa queste due città che erano sotto il controllo di Israele. Questo ha creato molto scalpore. Nel 1987, in tutto questo marasma che continuano a subire, l'OLP decide di reagire con l'intifada, la prima intifada, che è una rivolta che consiste fondamentalmente in una sorta di sciopero per giorni e giorni, in modo non violento. Cioè, al limite ci sono stati dei sassi contro i carri armati e queste cose qui, però è sempre stata un carattere abbastanza pacifico come cosa. Sì, all'inizio è nata appunto come una rivendicazione di diritti, del diritto ad avere una terra, ad avere uno stato da parte dei palestinesi che non l'avevano mai avuto. Nel 92 i laburisti in Israele decidono di aprire una trattativa, che però è una trattativa un po' strana, perché è condotta in due canali differenti. Da una parte Bill Clinton, che non risolverà un granché. Dall'altra parte invece viene svolto il cosiddetto trattato di Oslo. Sì, gli accordi di Oslo, che è stato gestito, dal ministro degli esteri norvegese Holst. No, lo so, è che gli accordi di Oslo, non so, mi lasciano un po' l'amaro in bocca, dopo vi spiego meglio però. Nel 13 settembre 1993, di fronte a Clinton, Arafat, capo dell'OLP, e il primo ministro di allora, Rabin, dei laburisti, stipulano questo appunto accordo di Oslo, in cui fondamentalmente lo stato palestinese non viene riconosciuto, però dall'altra parte l'OLP è riconosciuto come organo rappresentativo dei palestinesi, e quindi sembra già un passo avanti. Nel 96 ci sono le prime elezioni in cui viene praticamente eletto presidente Arafat, anche se non è uno stato comunque. No, non è uno stato, però questa cosa che sembra risolversi tramonta nel momento in cui ritornano al potere in Israele i conservatori di Netanyahu. Bella il governo blocca le trattative. Netanyahu è anche l'attuale presidente. Prima delle elezioni del 2001, Sharon, il candidato dei conservatori, fa un atto che non è piaciuto per niente ai palestinesi. Si va a fare una passeggiata. Ossia, si va a fare una passeggiata sulla spianata delle moschee. Così, perché quel giorno lì gli tirava così. Per simboleggiare che a lui non importa niente di quello che è sacro per i musulmani e che tutto ciò apparteneva a Israele e al suo popolo. Di conseguenza questa cosa non è piaciuta per niente ai palestinesi e scoppia la seconda intifada, che però, al contrario della prima intifada, dà l'avvio alla stagione dei kamikaze. E in questo clima di violenza Sharon nel 2001 vince le elezioni basandosi sul timore sostanzialmente. Però le cose degenerano e nel 2004 si rende conto che comunque sia non era stata una buona idea dopo tutto, perché da una parte la destra si spacca tra chi vuole prendere trattative e chi no all'interno dello Stato di Israele, e mentre gli Stato palestinese, da una parte muore Arafat e dall'altra parte sale al potere il partito integralista di Hamas, che è quello di cui sentiamo parlare anche ai giorni nostri. E niente, questa è la situazione in cui più o meno si tergiversa fino al 2004. E poi vi parliamo un po' più dei giorni nostri, ma prima vi lasciamo con una canzone un po' più allegra per farvi vedere che tutto sommato si può essere felici lo stesso. Vi lanciamo Tunak Tunuk Tun. Più o meno. Eccoci di nuovo in studio, ora vi parliamo più della situazione palestinese al giorno d'oggi, che non è per niente positiva, almeno per come l'ho vista io. Su questa radio già si parla in un altro programma di Palestina, spero che l'abbiate ascoltato. Comunque ho appena fatto un viaggio breve di 2 settimane che mi ha permesso, diciamo minimamente, di conoscere un po' meglio la situazione. E prima parlavo degli accordi di Oslo proprio perché sono è brutto pensarli o pensare a come sono diventati ora, qual è il risultato che hanno ottenuto ora, perché hanno diviso la Palestina, insomma i territori palestinesi a Cisgiordania, che è chiamata anche West Bank, in 3 aree, che sono l'area A, B e C, e di cui l'area C costituisce circa un 60% del territorio della Cisgiordania, è sotto controllo e soprattutto sotto la legge militare israeliana. Questo significa che in questa zona intanto i palestinesi non hanno alcuna possibilità di spostarsi, non hanno possibilità di viverci liberamente, ma soprattutto qualora commettessero qualsiasi reato in queste aree verrebbero giudicati secondo la legge militare israeliana, che dal punto di vista del diritto è una situazione abbastanza inaccettabile. Comunque gli accordi di Oslo dovevano essere per un'occupazione temporanea che doveva essere revocata nel tempo e doveva avere una durata quinquennale. Al giorno d'oggi non solo l'occupazione non è stata per nulla revocata, al contrario, lo Stato di Israele costruisce, non ogni giorno però, con frequenza almeno mensile, diciamo, nuove colonie nella Cisgiordania. Le colonie sono appunto degli insediamenti israeliani che possono essere abitati solo da israeliani. I palestinesi possono al massimo aspirare a lavorarci. E sono villaggi graziosi, anche molto carini, sulle colline, ma sono recintati a filo spinato, presidiati ai militari, c'è un checkpoint all'ingresso e sono disposti sul territorio in modo da poter collegare probabilmente in futuro la West Bank, le zone della West Bank tra Israele e la Jordan Valley, in modo da dare una possibilità di passaggio per gli israeliani. E quindi al giorno d'oggi non sembra che nessuno in Israele abbia interesse a livello governativo a revocare l'occupazione, non sembra ci sia interesse assolutamente a creare uno Stato palestinese, al contrario ai palestinesi si sta togliendo la possibilità di avere un'unità territoriale, di avere continuità territoriale, che è una cosa fondamentale per poter costruire concretamente uno Stato, ed è una cosa che fa arrabbiare perché nessuno se ne cura, perché Israele è uno Stato che a livello in Occidente viene riconosciuto come democrazia, ma democrazia non è, perché è uno Stato etnico che è basato su leggi discriminatorie, che tratta il popolo accanto come nemico a prescindere. Ma perché noi parliamo di popolo? Noi parliamo di popolo palestinese in quanto da poco tempo, relativamente poco tempo, cioè da 50 anni di storia, sono passati da essere arabi tra arabi, nella condizione prima della formazione dello Stato di Israele, a popolo palestinese in quanto si riconosce popolo nella tragedia che ha subito in questi anni. Sì, è difficile, sarà difficile. Si spera che si raggiunga una soluzione a livello diplomatico, ma attualmente, non so, da quello che ho visto è una mia opinione chiaramente, ma non mi sembra ci siano grandi speranze per questo popolo. Ci tengo a far sapere la mia esperienza proprio perché ho visto storie di ingiustizia che vorrei raccontare. Beh, adesso lanciamo una canzone allegra. Allegra, che mi sembra molto in tema, e si chiama Yes, It's Genocide. Цераїн мернем, цервахим мернем, церкянкин мернем, церкянкин мернем. Цераїн мернем, цервахим мернем. ragazzi, sono Giuliana. Oggi voglio farvi conoscere un progetto davvero bello e stimolante. Sì, ma tanto entusiasmo giù per cosa? Cioè, di cosa ci parli oggi? Carolina, un po' di pazienza, ora ci arrivo. Sto parlando di Oz. Chi di voi ricorda il Senza Filtro, centro di smistamento delle arti differenti, sesto progetto di bonifica culturale e custodia temporanea di spazi temporaneamente in disuso? Ebbene, non so se vi è giunta la notizia, ma lo scorso 8 luglio, mentre la maggior parte di voi probabilmente era nel pieno delle vacanze estive, questo centro purtroppo è stato chiuso alle attività dalla questura di Bologna a seguito dell'attacco di una discoteca. Ma quindi ci stai parlando di un centro chiuso te oggi? No, Carolina, questo è l'inizio. Ora ci arrivo. Fortunatamente questo triste evento è stato subito rimpiazzato da un nuovo progetto che è appunto Oz. Oh, e allora insomma parlaci un po' di questo nuovo progetto. Esatto, il progetto Oz nasce per l'esattezza il 30 ottobre 2014 dall'unione di ben 18 associazioni ed è sostenuto da Matteo Lepore, assessore al marketing urbano del comune, e dal quartiere San Donato. Nei locali di Oz prende vita Eden Park, che con i suoi 7000 metri quadrati per skateboard e parkour è quello che il resto del Carlino ha definito l'area per sport urbani più grande d'Europa. Accidenti, eh? Oltre a Eden Park, Oz ospiterà anche attività circensi, musicali, politiche, sociali, di arti visive, di progettazione e tante diverse iniziative culturali, da quelle di ANPI a SPACE, il salotto di cultura lesbica dell'associazione Fuori Campo, fino ai flipper d'epoca dell'associazione Tilt, che lasciatevelo dire, sono proprio una chicca, un gioiellino. E quindi ragazzi, se chi si occupa di questo progetto lo farà solo e unicamente all'insegna della cultura, dello sport, delle cose sane e belle, insomma, io credo che Oz possa diventare un centro davvero importante per Bologna e per tutti i suoi giovani, per tutti noi giovani. Quindi dai, basta stare a casa a perdere tempo davanti ai computer, a bigallonare per strada, a far nulla intere serate. Buttiamoci tutti in queste belle attività, dato che ne abbiamo la possibilità. Allora ragazzi, io vi lascio con alcuni dati tecnici. Aprite bene le orecchie, prendete carta e penna, cellulare, iPod, qualunque cosa abbiate sotto mano. Dunque, Oz si trova in via Stalingrado 59 a Bologna, naturalmente, e per qualsiasi informazione potete chiamare il 328 95 65 823, oppure scrivere all'indirizzo email oz.bologna@gmail.com. In ogni caso c'è la pagina su Facebook, potete cercarla tranquillamente sotto la voce Oz Bologna. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi. È il brano che ascolteremo adesso. Empty dresser, time to bring out the duster. Lift with the bone and a smile to last you.